Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Tante vite di sportivi sono caratterizzate da alti e bassi, da picchi, cadute. È quasi un percorso naturale per gli atleti professionisti. Bene, la vita che stiamo per raccontare è la dimostrazione che se associamo un talento veramente incredibile a un carattere altrettanto incredibile, diciamo problematico, ecco che gli alti e bassi diventano delle montagne russe, perché il protagonista di oggi è a pieno titolo uno che sta nella storia del tennis, per qualcuno è addirittura uno dei più grandi talenti mai visti in campo, e nonostante questo i suoi risultati, statisticamente parlando, diciamo il suo palmarès, non sono a livello di altri numeri uno del suo sport. Bastano un nome, un cognome e il ricordo di un carattere esplosivo. Per spiegare oggi questo divario tra talento e risultati abbiamo una serie di aneddoti molto interessanti, perché oggi raccontiamo la vita di Ilie Năstase da Bucarest, Romania, e lo raccontiamo anche perché alcuni di voi ce l'hanno chiesto, tra questi Alessandro Tamarozzi. Buongiorno Alessandro. Ciao. Cosa ti affascina di Năstase? Cosa che ti interessa? Più che Năstase mi affascina il tennis di quel periodo, che è un tennis certo, non bionico come quello attuale. Ti ricordo che non me ne intendo di tennis, sono ignorante in materia, ma sono legato per motivi, se vuoi, anagrafici a quel periodo, certo. E era un tennis che era dominato da dei personaggi incredibili. Voi avete, mi sembra, esaminato Giroletz, ma c'era Connors, c'era McEnroe, c'è l'imbarazzo della scelta, certo. Era un pazzo fanatico, tanto bravo quanto folle, insomma. Quindi per me è un discorso proprio legato al periodo, un periodo incredibile di quello sport. Hai ragione. Alessandro, ti ringrazio infinitamente, buona puntata. Grazie a voi, ciao. Hanno scritto tutto su di me, anche che sono omosessuale, che non sono neppure romeno perché sono stato molto all'estero. Ora, passi per omosessuale, ma l'accusa di non essere romeno mi offende davvero. E invece nessun dubbio sul suo luogo di nascita e neanche dubbi sulla sua eterosessualità. Un biografo ha scritto che ha avuto oltre 2000 donne, lui ha corretto il suo tiro, lo scrittore cercava del sensazionalismo, le donne finite nel mio letto saranno solo 600 o 700, che insomma non è male, insomma, non è a livello dei cantanti, ma si difende. Ma per chi ama il tennis, Năstase è stato uno dei tennisti che avevano un talento veramente cristallino, meritevole di entrare nell'Olimpo insieme a Borg, insieme a McEnroe, a Arthur Ashe, a Federer. Nonostante sia stato numero uno al mondo per 40 settimane tra il 73 e il 74 e abbia vinto molto, avrebbe potuto, secondo me, secondo noi, occupare un posto di maggior rilievo nella storia, almeno in termini di risultati. Però nella storia ci è entrato lo stesso, proprio per quel carattere folle, per quel carattere scorretto, geniale, per cui oggi è uno dei tennisti più amati della sua generazione. Ilie Năstase nasce in Romania, a Bucarest, nel luglio del 46, sesto figlio di Gheorghe, una guardia giurata della Banca Nazionale Rumena, madre moldava, espatriata in Romania nel tumultuoso dopoguerra. L'incontro del giovane con il tennis è casuale. Il padre ha assegnato dalla banca una casa all'interno dell'area dei campi da tennis reali, in cui il neonato regime comunista ha stabilito una sede con il nome Tennis Club Progresul. Vicino a casa però c'è un campo da calcio, lui all'inizio vuole andare lì a giocare, e poi invece il fratello Constantin, che fa parte già della squadra romena di Coppa Davis, lo convince a mollare il pallone e a provare a usare una racchetta. Lui a scuola va malissimo e lo ricorda con una vena vittimistica che più avanti mostrerà anche in campo. Lui dice di essere stato spesso bersaglio degli insegnanti, non prenderà mai neanche la licenza media, è scarso nei risultati, impacciato con il mondo femminile, si rifarà solo più avanti. Insomma, sta accumulando grandi frustrazioni, se non quando afferra una racchetta. Fuori dal campo lui sente di non essere mai al posto giusto, pensa di essere un incompreso, ha un senso di inferiorità profondo rispetto ai coetanei, e peraltro tutto questo fa sì che lui sviluppi, per difendersi, un pessimo carattere. Nessuno mi ha mai capito. Per voi intelligenti è facile essere intelligenti. Allora provate a immaginare com'è facile per me, un balordo, essere balordo. Gli insegnanti non lo capiscono, gli allenatori di tennis capiscono invece di avere tra le mani un grande talento. La scuola è quella dell'esercito rumeno, il Tennis Club Steaua, e lui lì comincia a prendersi le prime rivincite, impara in fretta, ha un suo gioco aggressivo, imprevedibile, fatto di istinto. Tecnicamente è un imperfetto, però è efficace. E il regime, come tutti i regimi, ha bisogno di simboli che passino per lo sport. E l'esercito diventa il vivaio dove crescere i talenti. Così a 17 anni lui si arruola, ma ovviamente la sua arma sarà sempre solo la racchetta, perché lui deve dare lustro alla squadra sportiva dell'esercito. I primi tornei sono tutti negli altri paesi, diciamo, del patto di Varsavia, di paesi dell'est o dall'altra parte della cortina. Si fa le ossa e poi arrivano le grandi occasioni. La prima, 1966, viene convocato nella squadra nazionale di Coppa Davis, sia nel singolare che nel doppio. E lui nel doppio comincia un'avventura con quello che rimarrà un suo grande amico, ed è un'avventura che rimarrà negli annali del tennis, perché nasce la mitica coppia Tyriak e Nastase. Il suo amico è proprio lui, Ion Tyriak. Il falco e il gabbiano. E Nastase comincia a farsi strada con il suo mantra personale, che è quello: vincere a tutti i costi, a costo quasi di rubare i punti all'avversario, ma soprattutto a costo di provocare gli avversari in ogni modo possibile. Il rapporto con gli arbitri è pessimo, peggio forse anche di quello che aveva McEnroe, considerato insomma il maestro delle scenate con gli arbitri. Così ha scritto di Nastase un grande del giornalismo sportivo, Gianni Clerici. È stato diverso dagli altri per una caratteristica fondamentale. Ha introdotto nel gioco lo spettacolo teatrale, direi soprattutto il musical. Certo, attori del Cour ce n'erano già stati, come Tilden, ad esempio, attore tanto professionale da aver giocato un match e aver recitato nello stesso giorno a Broadway. Ma nessuno era stato tanto irriverente, tanto consapevole che il tennis fosse anche, e in qualche occasione, soprattutto spettacolo. In Francia si dice infatti jouer sia per lo sport che per la scena. Ed ecco che Nasty, scelto dal destino per il palcoscenico dei Cour, era spinto a giocare, cioè a recitare. Abbiamo lasciato Nastase a quella prima convocazione, a quella prima partita contro la Francia, e lì va male, lui perde tutti e tre gli incontri, però sta crescendo. Nel 66 fa il suo esordio in un torneo del Grande Slam al Roland Garros, poi gioca a Wimbledon e alla sua borsa, che è di $100 grazie alla intercessione di Tyriak, può solo pagarsi qualcosa del soggiorno londinese. Perde seccamente in tre set contro un brasiliano, insomma, per i match sull'erba non è ancora pronto, ma la federazione romena crede in lui, gli paga un paio di mesi di soggiorno in India per fare pratica sull'erba. La cura funziona, insomma, Nastase comincia a segnalarsi e comincia a vincere le prime partite. E arriviamo al 1969, dove Nastase comincia a battere anche i top player, Tony Roche, il mitico Stan Smith. Nastase nel 70 viene indicato come uno dei migliori giocatori del mondo, è sesto dietro a personaggi come Rod Laver, John Newcomb, Arthur Ashe. Comincia a farsi conoscere dal pubblico italiano, con cui si sente in grande sintonia, è sempre presente agli Italian Open a Roma, vincerà nel 1970, legando peraltro con uno dei più grandi giocatori italiani di sempre, cioè Adriano Panatta. È un'amicizia che non gli impedirà qualche anno dopo di mettere in scena, ai danni di Panatta, uno dei suoi scherzi meglio riusciti. Il tennis per me è stata una scuola, meglio di tante università. Ho imparato a lottare, nessuno mi ha mai regalato niente, soprattutto agli inizi. E ho imparato a essere per bene, anche se mi chiamavano Nasty. Ero convinto che mi rubassero i punti. Era un mio complesso di inferiorità e allora discutevo sempre con gli arbitri. Eh sì, nome un destino, perché Nastase in inglese viene contratto in Nasty. E Nasty vuol dire sporco, vuol dire carogna. lui si conquista questo soprannome e soprattutto per le sue trovate in campo, quelle che fanno divertire il pubblico ma fanno innervosire gli avversari, le battute, le smorfie, sono delle vere e proprie rappresentazioni teatrali. Lui cerca ossessivamente il favore del pubblico e a volte diventa quasi clownesco, è sicuramente scorretto, è aggressivo. La strategia precisa è quella di fare arrabbiare i suoi contendenti. Io adoravo vedere le partite di gli match di Nastase proprio per quello, perché faceva saltare i nervi a chi aveva davanti. Gente come Bjorn Borg, partito freddo e si trovava veramente in difficoltà, oppure Adriano Panatta, di cui parleremo ancora più avanti. Insomma, nel 70 Anastasi diventa un eroe popolare di quelli che servono agli stati totalitari. Il regime di Ceausescu lo usa a suo vantaggio, viene promosso tenente, gli viene concesso un privilegio molto poco comunista, cioè quello di gestire da solo i suoi contratti pubblicitari senza pagare le tasse sugli introiti, pur di averlo a fianco del regime. Ma l'anno d'oro di Anastasi è sicuramente il 1972, perché lui vince a Nizza, a Monte Carlo, a Barcellona, a Montreal e a Forest Hills. Cede la finale di Wimbledon in una partita mitica, 5 set intensissimi con Stan Smith. Poi gioca una finale con gli Stati Uniti, sempre in coppia con Tirek, una finale di Coppa Davis, e si gioca in un stadio blindato perché è il periodo di settembre nero degli attentati terroristici palestinesi. La Romania perde 3-2, ma lui è il vero protagonista di quelle partite e di quella finale. Chiude il 72 con 120 incontri vinti, 12 tornei conquistati, tra cui il primo Slam, lo US Open, e il secondo Masters consecutivo. È in un momento magico, risultati in campo, denaro e donne, tantissime donne. È pronto a raggiungere la vetta del mondo del tennis. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di Ilie Anastase, uno dei numeri uno del tennis a metà degli anni 70, una leggenda del campo, perché era un artista, un fantasista del tennis, capace di incantare con la racchetta, imprevedibile, aggressivo, ma soprattutto uno che divertiva il pubblico con trovate al limite della squalifica. Era il terrore per gli arbitri, l'incubo per gli avversari, soprattutto i più seri, ma era adorato dagli appassionati, era il protagonista di un'era quasi mitologica del tennis. Avevamo racchette di legno e palle sgonfie, ma sapevamo tutto di tutti. Ci frequentavamo ed eravamo amici. Sì, amici, lo posso dire. E poi Borg. Borg tirava più forte di chiunque, mazzate da spezzarti le braccia. Ora Djokovic, Nadal e Federer non sanno neppure chi si troveranno di fronte. Sono macchine da soldi. Nessuno di loro pensa al pubblico. E lui invece al pubblico pensa sempre, quasi ossessionato. Quello che pensano di lui gli appassionati è un po' alla base dei suoi comportamenti che a volte forse tolgono qualcosa dal punto di vista tecnico, perché è probabile che Anastase a volte abbia perso delle partite per essersi deconcentrato per assecondare il suo la parte spettacolare del suo ego. Ma nonostante questo, arriviamo al momento in cui la Federazione Internazionale introduce il meccanismo computerizzato del calcolo del ranking, cioè ci sono delle leggi fisse, dei canoni fissi, dei parametri per cui viene fatta la classifica dei migliori del mondo, e lui nell'agosto del 73 diventa il numero uno e rimarrà numero uno per 40 settimane consecutive, chiudendo la stagione con 17 tornei e 114 partite vinte. È un periodo di successi, ma anche di comportamenti sempre più al limite, che contribuiscono a creare il suo personaggio. Nasty, la carogna, è quasi a ogni incontro, lui mette in scena provocazioni e su di lui cominciano a fioccare multe uno dietro l'altra. Lui se ne lamenta perché dice di essere nel mirino dei giudici. Oggi accetto la multa perché non voglio più perdere tempo come le altre volte. Ho provato ad andare dai miei avvocati e dire: ascoltate, ho già speso troppi soldi, ma non ho ottenuto nulla. Perdo solo soldi e tempo e voglio solo lasciarmi tutto alle spalle. Tu dici di non essere stato l'unico ad aver sbagliato. Cosa vuoi dire? Io sono l'unico a pagare a questo livello grandi multe. 3.000, 5.000, 10.000 dollari. Gli altri pagano noccioline al confronto. Ti comporterai meglio in futuro? Mi comporto sempre bene. Sono sempre me stesso, con la mia personalità. Non posso essere come Smith o Ash, e sono sicuro che loro non possono essere come me. Sarò sempre così. Insomma, la vita sportiva di Nastase è una lunga serie di trovate, di momenti divertenti, almeno per gli spettatori, molto meno per gli avversari e per i giudici. Nel 75, per esempio, fa coppia nel doppio con Jimmy Connors, non so se mi spiego, un altro personaggio dal carattere molto particolare. Nella partita d'esordio contro Di Matteo e Franchitti, due italiani, lui approfitta di un pallonetto effettuato da Connors per correre alla panchina, dissetarsi, tornare in campo e continuare a giocare. E più avanti nel torneo, in semifinale contro Gisbert e Orantes, due spagnoli niente male, lui prende a pallinate la postazione Rai perché sta ospitando un cronista che secondo lui sta parlando a voce troppo alta. Nel 76, in un torneo alle Hawaii, chiama Negroni Arthur Ashe, uno dei più compassati tennisti della storia. Lui però non si arrabbia, anzi lo difende dalle critiche. Durante un altro torneo si mette in sciopero per 15 minuti contro una decisione del giudice di sedia. A Nizza, in un incontro di doppio misto, se la prende con una ragazza, l'australiana Shan Fro, la colpisce apposta due volte con due volée di dietro, le fa venire una crisi isterica. Ma forse lo scherzo più clamoroso è quello che mette in atto contro un suo amico, il nostro Adriano Panatta. Siamo nel 77, torneo di doppio a Parigi. Tiriak e Nastase contro Panatta e Bertolucci, quindi un doppio con due coppie mitiche. E Nastase è amico di Panatta, sa quanto l'italiano sia superstizioso. Poco prima del match, nonostante Tiriak si protesti perché vuole tirarsi indietro, convince uno dell'impianto sportivo parigino a trovargli un gatto nero. Tiriak minaccia di ritirarsi, Nastase va avanti, prende il gatto, lo infila nella borsa da gioco e il resto sentiamolo da lui. You put the cat in your racket bag. Sì, l'ho fatto. E poi siamo andati in campo, ci siamo riscaldati. Quando il giudice ci ha detto: signori, iniziate a giocare, io ho avvisato che avevo dei problemi con la mia racchetta e la volevo cambiare. Così l'ho cambiata e ho fatto ovviamente uscire il gatto. Il gatto è corso dritto da Panatta, non so perché, dritto da lui. Adriano per tutta la partita non è riuscito a piazzare neanche una palla in campo. 6-0, 6-0. Beh, fantastico, scusate, ma fantastico. In realtà le cronache raccontano che il punteggio finale fu 6-2, 6-4, però raccontano anche di un Panatta furibondo che insultò pesantemente Nastase. E noi abbiamo la fortuna di poter verificare proprio con uno dei più grandi tennisti italiani di tutti i tempi, è Adriano Panatta. Ciao Adriano. E senti, noi abbiamo sentito l'aneddoto del gatto lanciato in campo da Nastase. Cosa ci dici a proposito? È un bugiardo patentato. Onestamente non mi ricordo neanche se avevo vinto o perso con Tiriak. Abbiamo sempre vinto con Nastase e Tiriak. E quindi il racconto è vero, il risultato a parte. Insomma, cos'è? Una delle tipiche follie di Nastase. Sì, sì, ma insomma lui era un po' mattarello. Ragazzo straordinario, buonissimo, devo dire, perché è un ragazzo con grande cuore, però è un po' mattarello così, un po' estemporaneo. Estemporaneo, senti, Tiriak, il suo compagno storico, ha detto che secondo lui il più grande talento dei vostri tempi è stato proprio Ilie Nastase. Uno dei più grandi, insomma, il più grande no, ma insomma uno dei più grandi sicuramente. Ma Ilie aveva una caratteristica... che aveva due gambe come una gazzella, per cui era il giocatore che si muoveva meglio di tutti quanti, era molto agile, elastico, sembrava che danzasse sul campo. Poteva scendere a rete. Poi c'aveva talento, logicamente, giocava molto bene a tennis, era un giocatore, insomma, che ha fatto anche un po' la storia, no? Sì, ma però era anche uno che faceva impazzire gli avversari, li provocava, li metteva sotto dal punto di vista psicologico, no? Sì, lui faceva, lui era un casinista soprattutto, per cui io amavo giocare contro di lui, perché tecnicamente mi ci trovavo bene. Solo che era insopportabile certe volte, allora io lo minacciavo di morte fisica proprio a cambio di campo. E lui come reagiva? Rideva. Io dico, guarda, ti ammazzo, dopo usciamo e ti ammazzo. Una volta invece in finale a Monte Carlo, in finale lui faceva il deficiente come al solito, mi dava fastidio. Allora a cambio di campo, tutte delle racchette appoggiate al frigorifero, io al cambio di campo ogni volta passavo, davo un calcio alle racchette e le facevo cadere per provocarlo. Lui mi ha detto basta dare calci alle mie racchette. Io l'ennesima volta al cambio di campo davo un calcio alle racchette e l'ho fatta ricadere. Lui era già in campo, è tornato, ha preso tutte le mie racchette, ha aperto il frigorifero, l'ha buttato dentro e è richiuso. Senti, ma invece hai giocato con lui, cioè com'era giocare assieme a lui? Abbiamo giocato insieme in doppio, che noi abbiamo giocato spesso in doppio io e Anastasia. Abbiamo vinto anche tanto in doppio. Poi una volta abbiamo giocato in finale a Mexico City, abbiamo giocato contro Hocker Rissen, che era un doppio pazzesco ai quei tempi, e lui odiava Hocker, per cui mi ha detto guarda, se lo colpisci forte ti do $100. Allora ho detto ma no, dai, no, lo chiamava Sammy, perché si chiama Samuel. No, certo. Se colpisci Sammy io ti do $100, che $100 nel 70 era come adesso, no, non era male, 1000. Allora a un certo punto c'è lo scambio, io cambio e do una pallata, ma forte, ma proprio forte, al costato di Hocker, che è caduto per terra, cioè, ti avete fatto male. E la Sase in tutto questo è andato lì, ha preso i soldi dal portafoglio e mi ha pagato in campo. E Hocker mi ha odiato non so per quanto tempo, ma poi lui con Anastasia si prendevano sempre, che il era matto. Senti Adriano, l'ultima cosa, Anastasia dice che nel tennis dei vostri tempi tra giocatori, e tu mi sembra me lo stai un po' confermando, c'era conoscenza, c'era amicizia, e lui dice oggi nessuno conosce o frequenta nessuno. Noi andavamo a cena insieme la sera, andavamo in tornei. Non è che adesso c'è tutto i clan, ci sono i clan, no? Ogni giocatore c'ha il suo clan, ognuno col suo staff, il psicologo, il coach, la moglie del coach, la zia del coach, no, adesso invece prima andavamo tutti a cena insieme, cioè chi era amico uno con l'altro se andava a cena, anche se giocavamo un contro il giorno dopo la stessa cosa. Eh beh, un altro tennis, io ringrazio Adriano Panatta che ci ha aperto una ulteriore finestra sulla follia di Ilie Anastasi. Però insomma adesso sarebbe ingiusto ridurre solo agli episodi agli scherzi, alla follia, tutta la carriera di Ilie Anastasi. La verità però è che dopo il suo periodo d'oro a metà degli anni 70 il tennis comincia lievemente a cambiare. Arriva sulla strada di Anastasi e di molti tennisti un macigno dal nome svedese, Bjorn Borg. Nonostante lo abbia battuto diverse volte, una data segna l'inizio del dominio dello svedese e l'avvio del declino di Anastasia. È il 3 luglio del 76. I due si sono incontrati sul campo centrale di Wimbledon. Però è un incontro a senso unico perché Borg vince i primi due set e nel terzo resiste al tentativo di rientrare in partita da parte di Ilie e del romeno e chiude il match per 3-7-0. E da quel momento Anastasia comincia a vincere meno e quindi quando vinci meno anche il tuo atteggiamento clownesco comincia a perdere spontaneità, perché sembra quasi che gli show diventino una necessità. Lui è diventato una macchina da soldi, ci si aspetta sempre più lo spettacolo di quel tipo, anche se non è più in grado di essere un tennista di vertice. Il vecchio Nasty diventa un po' il buffone di Bucarest, cominciano a chiamarlo così. così. Nell'84 si allontana dai campi da gioco, si ritira nella sua casa di New York con la seconda delle tre mogli che avrà, ovviamente stiamo parlando di modelle, la seconda è una modella americana. Scrive due romanzi ma viene stroncato dalla critica e alla fine del decennio torna da capitano non giocatore della Romania in Coppa Davis. Poi nel 96 prova la strada della politica, intanto tenta anche di fare dei tornei senior, poi si candida sindaco di Bucarest, però viene messo sulla graticola perché viene accusato dagli avversari di aver fatto la bella vita mentre i romeni vivevano le fasi della fame, della sofferenza, del comunismo. E i giornali scoprono che non ha fatto le scuole medie, un dossier anonimo addirittura lo indica come al soldo della polizia segreta sotto il regime di Ceausescu. Insomma, forse non è neanche vero, sta di fatto che lui le elezioni le perde. All'inizio del 2000 va a capo della Federazione Internazionale del Tennis e di quella romena, poi va via in forte polemica nel 2008, è accusato addirittura di frode, si dimette dicendo: visto che nessuno ha bisogno di me, lascerò il paese. Insomma, un genio sregolato, uno che del tennis con le racchette di legno, insomma, per capirci, è stato uno dei più grandi interpreti, una storia di successo, di colpi d'ala grandissimi, ma anche di spettacolo, anche di contestazioni, è andato in alto, ma poi ha dovuto nascondere le proprie insicurezze dietro, non so, allo sberlefo dell'avversario, all'insulto dei giudici. Lui voleva dalla sua parte soprattutto quello che per lui contava di più, cioè il pubblico. Queste sono le storie che ci piace raccontare, controverse ma affascinanti e a volte parte di un mondo irripetibile come il mondo di quel tennis di Adriano Panatta che abbiamo sentito prima e del nostro protagonista Ilie Nastase. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falco il gabbiano chiocciola radio24.it, visitate la nostra pagina su radio24.it, venite a trovarmi nei miei social, Facebook, Twitter, in quelli del falco il gabbiano, insomma, se volete, lo sapete, mi trovate. Ciao, a lunedì. They woke to breaking-